Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Amici di Blu Radio Veneto, eccoci per un altro appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Abbiamo parlato quest'estate di casi, insomma, di problemi come sempre legati al turismo, no? Cioè a viaggi prenotati, a cose che vanno certe volte e altre cose che non vanno e che creano disagi e anche perdita di denaro e magari perdita della stessa vacanza. Questa volta raccontiamo una vicenda che insomma si è conclusa bene. Sì Francesco, innanzitutto ci precisiamo a dire, e magari nei prossimi giorni vedremo anche di dare qualche dato, che noi in particolar modo d'estate abbiamo uno sportello che lavora a pieno regime tutti i giorni, è denominato sportello vacanza informata, proprio per dare assistenza a tutti i consumatori per quanto concerne le problematiche prima, dopo e durante nel periodo di vacanza, e permetta quindi al consumatore di tutelarsi o richiedere anche anticipatamente informazioni. La seconda cosa riguarda proprio questa vicenda che ci eravamo occupati un po' di tempo fa, proprio quest'estate, cui dei consumatori, uno in particolare che abita anche vicino all'Adico, si era rivolto a noi per un volo, la Z0788, che era partito dall'aeroporto di Marco Polo di Tessera in direzione Tokyo, che all'altezza dei cieli dell'Ucraina ha dovuto rientrare a Roma e quindi far perdere un giorno a queste persone, ma soprattutto essendo che là ci sono anche dei conflitti, ha creato dei notevoli disagi e dei stati d'ansia incredibili tra i passeggeri che temevano in un primo momento addirittura un dirottamento. Cosa è successo? Allora è venuto da voi e ha chiesto di essere rimborsato? Sì, praticamente questo consumatore che abita appunto vicino ai nostri uffici, quando ci ha raccontato questa vicenda, addirittura anche noi siamo rimasti quando sconcertati, perché diceva che dopo un po' di ore che lei era in viaggio, insomma, a un certo punto hanno dovuto fare un'inversione a U e tornarsene a Roma, calcolando che loro erano partiti oltretutto da Venezia. Chiaramente c'è stato un disagio di molte ore sulla tabella di marcia, addirittura appunto hanno preso anche un giorno di vacanza in soldoni, perché aveva anche, stava andando a fare un po' di villeggiatura, ma soprattutto essendo che in Ucraina c'è un conflitto tuttora in corso, le persone appunto temevano un dirottamento, e quindi di là delle spiegazioni o meno, certamente sono stati parecchio turbati, e questo fino al felice epilogo che, come hai detto tu, l'Alitalia ha riconosciuto in questi giorni al nostro socio. L'Alitalia rimborserà 600 euro al passeggero, giusto? E quindi la cosa che salta subito all'occhio è che non bisogna desistere. In certi casi, quando riteniamo di aver subito un danno, dobbiamo cercare di ottenere una risposta, come in questo caso. Sì, noi appena abbiamo ricevuto la pratica, i nostri uffici hanno subito provveduto a diffidare la compagnia, invitando la stessa a un risarcimento di 600 euro a passeggero. E ricordiamo che l'aereo, su quello che sembrano le spiegazioni ufficiali date dall'Italia, sostanzialmente ha dovuto far rientro perché non hanno pagato questa specie di dazio per sorvolare. È una spiegazione che ce la teniamo così buona, ma che a noi non interessa andare a fare due altri approfondimenti, perché comunque si è conclusa positivamente e i nostri soci sono stati tutelati. Certamente, come hai detto tu, questo deve essere un monito, perché quando le persone si trovano in queste situazioni non debbano mai desistere, ma portarle avanti, in quanto riteniamo che ci sono dei danni e degli effetti collaterali determinati appunto anche ai disagi, certamente questi possono anche essere quantificati. Ecco, stavo riflettendo così, anzi lo faccio una riflessione a voce alta, tutti gli altri che erano nello stesso aereo avranno fatto la stessa richiesta dell'associato dell'Adico di Mestre? Io me lo auguro, perché il senso di questa rubrica è anche quello di cercare di arrivare a coloro che magari si sono rassegnati e non hanno fatto nulla. Certo è che il socio in oggetto non ha esitato e ha voluto andare a fondo, e da aprile ad oggi ha concluso positivamente nel giro di questi giorni, perché la comunicazione ci è arrivata 2-3 giorni fa, dove l'Italia si impegna entro 15 giorni a risarcire la persona. Noi ci auguriamo che, siccome si rientra nei termini per poter richiedere anche eventuali altri rimborsi. Chiunque si sia trovato in condizioni di questo genere o anche nel volo che stiamo appunto raccontando, a non esitare a contattare i nostri uffici, perché Adico, soprattutto in queste attività, ha sempre saputo distinguersi molto bene. Ecco, ricordiamo in chiusura che il volo era quello del 19 aprile e partiva dall'aeroporto Marco Polo di Tessera, direzione Tokyo. Così, insomma, magari qualcuno dice, ma c'ero anch'io, quella si riconosce su questa cosa, su questa vicenda. Sicuramente. Allora, Carlo, io intanto ti ringrazio, ricordo che c'è il sito associazionedifesaconsumatori.it che dà ulteriori dettagli e ragguagli di questa storia, ma anche di tantissime altre, e la possibilità di trovare i contatti per in qualche modo chiamarvi e perché no anche associarsi. Sì, come hai detto tu, le indicazioni sono precise e il servizio, anche se poi andiamo avanti su una stagione non è più estiva, comunque lo sportello della vacanza in questo caso comunque rimane sempre attivo da lunedì e venerdì dalle 9 fino alle 19. Grazie al presidente Carlo Garofolini. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.